Sconvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Noi abbiamo degli obiettivi molto precisi. Vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, soprattutto una squadra che possa ritornare con stile, con classe, con cuore sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e per dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato. Il nostro obiettivo di quest'anno è arrivare nei primi cinque per poter partecipare a una Coppa internazionale a partire dall'anno prossimo. L'anno prossimo la squadra sarà ritoccata, se ciò si rivelerà opportuno, nelle parti necessarie, e credo che soltanto a partire dal terzo anno noi potremmo iniziare a cambiare ogni anno un giocatore o due per avere una squadra veramente competitiva. E naturalmente questi 25 anni di vittorie, forse se qualcuno di noi non ci fosse stato, sarebbero stati ugualmente possibili. Non sarebbero mai stati possibili se non ci fosse stato lui con il suo grande cuore, Adriano Galliani. Ce l'abbiamo fatta. Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan. È un po' di Berlusconi dall'inizio fino a quasi alla fine, fino a quasi a quelle dichiarazioni dell'altro giorno. Ho deciso, vendo, però lascio in eredità al Milan 400 milioni di euro da buttare sul mercato, da mettere sul mercato nei prossimi due anni, perché così sta scritto negli ancora misteriosi contratti con gli ancora misteriosi cinesi. 30 anni della nostra vita, ma soprattutto della vita dei tifosi milanisti con Berlusconi presidente. Franco Ordine, quanti anni per te? Quanti anni della tua vita a seguire il Milan con Berlusconi presidente? Ma io, guarda, ho avuto la fortuna, oltre che il piacere, di assistere a Milanello, allora lavoravo al Corriere dello Sport, al giorno febbraio dell'86, quando si presentò per la prima volta Berlusconi a Milanello, e da allora ne ho seguito tutta la cavalcata trionfale, naturalmente. E quindi devo dire che oggi, diciamo, al di là di tutti i discorsi, i 400 milioni innanzitutto sono in tre anni, non in due, e al di là di tutti i discorsi mi pare che anche il passo d'addio del presidente abbia comunque sia in qualche modo un atto, l'estremo atto d'amore nei confronti del club e della società. Perché ha chiesto e preteso nei patti parasociali che venisse indicata questa cifra per i prossimi tre anni per il potenziamento, non solo per il potenziamento, perché poi bisognerà fare anche i conti con il passivo di bilancio. Certo. 800240024 numero verde, 349-238-6666. Stiamo aspettando Pardo, che dovrebbe materializzarsi a minuti. E adesso è fatta. No, è fatta, credo non ci possano essere più sorprese retromarce dell'ultima ora. Insomma, no? più che fatta, sì, non so, nel senso che ormai il treno è partito, è lanciato ed è difficile arrestare nella corsa. Dico soltanto che però per poter dire è fatta, secondo me bisognerà almeno aspettare la prossima settimana la firma del preliminare che poi porterà a quella, diciamo, conclusiva del closing, che dovrebbe avvenire intorno a metà 20 settembre. Nel frattempo ci sono tante cose in mezzo da fare e quindi credo che ci sarà da lavorare per tutti. Ma io ho notato oggi, almeno per tra quelli che scrivono ma anche quelli che chiamano, insomma, una certa diffidenza, una certa preoccupazione. Non so se è, insomma, il fatto che quando eccolo qui, ciao Pierluigi Pardo, buongiorno, come stai? Bene, come va? Tutto bene, cioè Ciccio Ordine. Stiamo parlando. Occhio! Come sto? Io benissimo. Dove sei? Nella ridente Foggia? No. Sono a Milano in piena attività. A Milano in piena attività sta seguendo. Ha imparato il cinese? Ha imparato il cinese? No, non intendo nemmeno impararlo. Che cos'è questo? Se vogliono venire a fare gli imprenditori a prendersi il Milan, oltre che l'Inter, devono imparare l'italiano. Ecco, cineserie a Milano, franco ordine. Comunque, dicevo, una certa preoccupazione tra i tifosi del Milan, perché insomma in tanti spingevano Berlusconi verso la cessione, sono stati anni molto grigi, lo sappiamo benissimo. Ma quelli, poi succede e sai, qualcuno comincia ad aver paura, no? Dice, ma da che parte andiamo? Prendi nota di quelli che dicevano ma dai, basta, vendi. Questi qua, tra non molto, li vedrai in processione al santuario di Arco e a chiedere di come è successo a qualche processione interista sotto gli uffici della Saras, no? Sotto casa di Moratti. Quando aveva venduto a Toir. Sì, ma anche negli ultimi mesi, tanto che c'era la voce Moratti tornerà, non torna più Moratti, anche se rimane lì a sorvegliare, a sorvegliare la l'identità interista del club. Sì. Allora, Franco, stai lì un attimo, ci fermiamo un secondo per il traffico, poi ricominciamo a parlare. 800 24 00 24, numero verde, un abbronzatissimo Parda qui con me. Tra poco. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, con Franco Ordine al telefono e Pierluigi Pardo qui con me, stiamo parlando di scenari presenti e futuri del Milan. Cosa vuoi sapere da Ciccio? Voglio sapere che quali sono i primi exit poll, perché i sondaggisti ultimamente non ce ne beccano una, quindi poi anche se sbagli poi alla fine non ti verrà rimproverato sul mercato, perché insomma per esempio leggiamo di un interessamento per Piazza con un blitz di Galliani che potrebbe aver già funzionato, insomma c'è il cash, ma poi chi allora, lo mette, guarda, questo cash? Altra beh, domanda. Cinesi. Uno degli accordi fondamentali di questo periodo di transizione è appunto legato a chi paga chi, chi paga cosa. Allora, l'ultima operazione pagata da Fininvest è stata la Padula. Dal 1 luglio intervengono i cinesi con l'accordo che nel caso in cui dovesse saltare e non ci fosse il closing, ci sarebbero tutta una serie di conseguenze legate a questo deposito di 100 milioni che è vincolato di 100 milioni. Allora, veniamo ai nomi. Piazza non è, la stampa lo ha scoperto oggi, ma il Milan era da un anno e mezzo, due, sulle tracce di questo ragazzino e quindi credo che abbia un leggero vantaggio che adesso, dopo che è stato fermo per alcune settimane proprio per il negoziato e il passaggio delle azioni, adesso credo che possa partire sparato Galliani, e si è fatto questo blitz ieri è proprio per questo motivo. Poi credo che ci sia questo interesse per André Gomes, un altro centrocampista di valore. Credo che non parta più Kučka, che era stato richiesto dal Torino, in particolare da Mihajlovic. Credo che ci sia qualche trattativa per, tra virgolette, rimodellare completamente il parco attaccanti, perché va bene, Suso, Matri e Menez dovrebbero essere in partenza, ma non è escluso che lo siano anche Bacca e Niang. Niang per motivi non tecnici ma comportamentali. E Bacca perché ha sul mercato una quotazione tale 25-28 milioni che consentirebbero al Milan altre operazioni. Neanche sono fatto il nome di Balotelli, no, storia finita. No, quello ormai arrivederci alla prossima vita. Ho capito. L'ultima cosa, mi spieghi quale sarà l'organigramma societario? Allora, l'organigramma societario, Barbara farà parte del consiglio di amministrazione, ma non avrà la delega di amministratore delegato. Nicolas Gancikov sarà uno dei due amministratori delegati. Immagino che poi, quando ci sarà il passaggio definitivo, la governance sarà il presidente Silvio Berlusconi rimane presidente onorario senza limiti di tempo. Quando ci sarà il passaggio definitivo delle azioni, cioè questo tra metà e fine settembre, naturalmente ci sarà la convocazione della nuova assemblea e quindi l'espressione della governance da parte dei cinesi. Galaziotto oggi, arrivando a Milano, ha detto: quando ci sarà la firma avrete i nomi. Mm-hmm. E quindi ci sarà una loro il ruolo di Galliani, che è quello sul quale tutti si concentrano, sarà quello, secondo me, di vicepresidente, con la delega all'area sportiva e soprattutto la delega al rapporto con le istituzioni. Perché tutto, diciamo, tutta la materia della politica che riguarda la Lega, l'attività in Lega, i diritti televisivi, eccetera, sarà naturalmente nelle mani del dirigente, che è quello che ha in materia il maggior numero di esperienza alle spalle. Tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Insomma, se si realizzerà questo tipo di scenario, sarà uno scenario misto, no? Cioè, in qualche modo, al di là degli aspetti strettamente legati alle quote, uno scenario nel quale comunque, insomma, il vecchio Milan conserverà un ruolo non soltanto simbolico, mi sembra. E questo forse può essere una garanzia. Io sinceramente, è chiaro che quando uno viene da fuori e mette i soldi, poi vuole giustamente avere la governance, e ci mancherebbe altro, ma essendo persone certamente bravissime, certamente facoltosissime, che però vivono la realtà del calcio italiano ovviamente come qualcosa di molto nuovo, io credo che, insomma, avvalersi di manager di comprovato livello possa essere una mossa intelligente. Bisogna capire se si realizzeranno le condizioni per andare d'accordo, perché se poi non si è d'accordo, chiaramente crolla in poche ore. Però, insomma, io credo che di fondo il Milan avesse bisogno di risorse. Queste risorse stanno arrivando e quindi io credo che sia un'opportunità. Sì, dovrebbe esserci anche un coinvolgimento istituzionale, mi sembra che Berlusconi ne abbia accennato, del governo cinese. Quindi... No, ma quello è garantito perché diciamo è da lì che nasce l'input, anche perché è vero che in Cina è quasi tutto statale, però il fatto che il presidente abbia ripetuto ancora una volta proprio ieri che, diciamo, in questo consorzio, che poi non sarà un vero consorzio ma sarà, diciamo, una società che ingloba, che metterà dentro le quote di queste ci sono aziende a partecipazione statale, questo ti dà l'idea che comunque c'è un coinvolgimento del i comunisti ordine comunisti. Vabbè, ieri c'era ovviamente molta ironia sul web, Mina, che finisce nelle mani del Partito Popolare Cinese, fa parte ovviamente del gioco, e in qualche modo ci racconta anche, insomma, di come il mondo poi stia cambiando. La sensazione è che oggi i mercati, la dimensione dei mercati, sia purtroppo per noi decisiva. E quindi è chiaro che quando tu hai, basti pensare, girandosi per un attimo sull'Inter, la forza del gruppo Suning, no? la forza commerciale, l'attenzione. Chiaro, di cosa stiamo parlando? Di che parliamo, cioè. Esatto. Per cui, insomma, noi italiani, noi europei, dobbiamo mettere a disposizione, in un mondo globalizzato, un po' della nostra storia, della nostra cultura, dei nostri brand, e il Milan è stato venduto a un prezzo importante perché ha vinto così tanto in questi anni, e questo tipo di discorso, insomma, mi sembra abbastanza inevitabile, francamente, così come quando sono arrivati gli americani, si sono comprati quel marchio, quella parola Roma, che è una parola famosa. Se costruisci una grande squadra e cominci a vincere, certo. Va benissimo il fatto che al posto di Berlusconi ci sia seduto qualcuno con gli occhi a mandorla. Franco, grazie. Ciao Franco Ordine. Comunque sono arrivati i comunisti. Milan nelle mani del Partito Popolare. C'erano cose molto cinese. Divertenti sul web, ma insomma è normale. Dai, fa parte. Ma secondo te hanno ragione i tifosi milanisti ad essere preoccupati? Ordine prima diceva: tra un po' vedremo la processione dei tifosi del Milan sotto casa di Berlusconi. Il nuovo spaventa sempre un po', no? Soprattutto perché poi, e questa può essere una soddisfazione che Berlusconi, insomma, in queste ore può godersi, perché poi il vecchio è stato un gran vecchio, insomma. Ribadisco, nel momento nel quale noi usciamo sul Milan con la notizia di queste ore dalla dalla dimensione della cronaca, che è stata una dimensione assolutamente sbiadita, gli ultimi anni sono stati terribili, nessuno lo mette in discussione, ma la riportiamo alla valutazione complessiva su 28 anni, 30 anni di storia, insomma, 30 anni di storia. 30 anni, 28 titoli. Ecco, capito, di che stiamo parlando? No, ma poi è strano, no? 30 anni della nostra vita, dicevo prima, ma 30 anni anche della vita, soprattutto della vita dei tifosi milanisti, cioè è un'epoca che si chiude per mille motivi e se ne apre un'altra che... Con delle incertezze. Ma anche, chissà che ne pensa Giannino che sta passando, eh? Glielo dobbiamo chiedere. Però se n'è andato. Ho chiesto prima di informarsi, perché volevo sapere, sono curioso di sapere chi sono questi investitori cinesi. Aspetta, mi ha detto, aspetta che adesso mi informo, poi te lo dico. Di sicuro c'è il Partito Popolare Cinese, quindi ha detto la stessa cosa. Il Milan al Partito Popolare Cinese. Roberto, Partito Comunista Cinese. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, semplicemente, i cinesi secondo me in questo momento hanno soldi ma non passione. Sono mercanti da secoli, basta un niente che mandano a catafascio tutto quanto. Nel senso, loro mettono fuori 100 milioni di euro, 200 milioni di euro, 300 milioni di euro, questi soldi devono tornare indietro con gli interessi. Io non credo che il Milan nella gestione Berlusconi in 30 anni abbia mai avuto dei bilanci in attivo, anzi credo che il passivo sia sempre stato ripianato dal presidente. Sì, sì. E a questo punto cosa succede? Se non c'è un ritorno economico, questi pseudo imprenditori possono anche dire basta, il giocattolo non mi piace, lo metto in un angolo, lo svendo e chiudiamo. Questo guardi, è uno dei rischi, lei ha perfettamente ragione, penso che quello che ha fatto Tohir legittimamente all'Inter, che è stata una grande operazione di trading con una plusvalenza importantissima in un tempo piccolo, come cantava il mitico Califano, in un tempo relativamente piccolo è riuscito a fare una mega plusvalenza. Questo ovviamente è perfettamente legittimo, ci mancherebbe altro, perché fa parte della libertà di impresa, è chiaramente uno dei rischi, non c'è dubbio. Però dico anche una cosa, che così come è pericolosa la cultura di qualcuno che viene da fuori soltanto per fare trading su una società di calcio, è anche pericolosa la cultura di pensare che un presidente della squadra di calcio ci debba rimettere, cosa che spesso in Italia è successo. Certo, cioè spesso in Italia e in Europa le società di calcio sono state delle aziende in perdita che davano un indotto importante, perché poi magari se facevi l'imprenditore c'era un'area nella quale ti davano la licenza ti davano un potere politico, una visibilità che sicuramente è un elemento importante della presidenza della squadra di calcio. Però ecco, l'idea che una società di calcio debba essenzialmente avere un bilancio inattivo non è mica dovrebbe essere la norma. Io credo che la gestione mecenatistica, esiste questa parola del calcio italiano, siamo sempre stati abituati a presidenti industriali di casa nostra che prendevano squadre di calcio per motivi tra i quali quelli che dici tu, e che andavano a buttarci un pozzo di soldi. Ma questo tipo di gestione non esiste più nel grande calcio. No, non esiste più, insomma, c'è l'idea che il presidente mecenate, che il calcio possa essere un settore nel quale si possa fare business e quindi alla fine dell'anno cercare di fare come minimo il pareggio e magari un obiettivo di carattere economico e distribuire dividendi agli azionisti, secondo me non è una cattiva idea. No. Dovrebbe essere la norma di qualsiasi attività. Non dovresti fare il presidente soltanto perché così poi diventi amico del sindaco che ti dà la possibilità, che ne so, di avere la licenza per un cinema o per una sala giochi o magari per candidarti in politica. E troppo spesso, secondo me, lo è stato, legittimamente, perché poi finché uno non commette illeciti va benissimo, però è stato uno strumento di lobby, secondo me, in tante situazioni. E il Milan probabilmente è il massimo esempio di questo, tipo di logica. Trionfi sportivi e i trionfi politici finché ci sono stati di Berlusconi c'è sicuramente un filo rosso-nero, ci fermiamo per la borsa, ma torniamo. 800 24 00 24, numero verde. Bene, molto bene, il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Si ricomincia. Tutti convocati. Fischietto break, è partito Bale, Harden non arriva, il gol di Gareth Bale, il Galles è in vantaggio, naturalmente la firma è del suo principe, è lui il vero principe del Galles. Gio Mario che si propone a destra, al centro attende Andre Gomes, il cross per Ronaldo di tacco, rete, gol meraviglioso, è lui, è il fenomeno, è CR7, Sei gran palla per Bale. Bale con l'esterno. Gareth Bale al 67esimo chiude il conto con il terzo gol e il capocannoniere dell'Europeo trascina il Galles. Cross di Quaresma. Ronaldo! Ronaldo 3-3. Va bene, le cose di mercato, il Milan, le cose di casa nostra, Bielsa che poi vi raccontiamo, dovrebbe grande, essere finito questo giallo. Grande, grande. Bielsa è uno dei, in un calcio come il nostro che ormai insomma, fatica a trovare no, i propri i veri numeri uno, però insomma almeno qualche personaggio, Bielsa è uno che insomma, può dare tanto. E comunque arriverà bienvenido. Sabato, bienvenuto, contratto depositato, finito questo giallo che lo vedeva così come candidato alla panchina argentina dopo l'addio del Tata Martino. Fabio da Roma, ma torniamo a parlare di europei perché ne abbiamo una gran voglia, c'è ancora questo titolo da assegnare, ci sono due grandi semifinali a cominciare da quella di stasera, quella degli underdog Portogallo-Galles e poi domani sera il grande derby d'Europa. Fabio. Ciao, buonasera. Ciao. No, io volevo tornare un attimo sul discorso dell'acquisto di cinesi per Inter e Milan, ma e sento molta perplessità, persone che dicono che possono uscire rapidamente se le moltipliche dei loro utili non siano tali, ma per me è solo una questione di numeri, cioè se tu hai accesso a un mercato di 1,5 miliardi di persone tra Cina, Singapore, Taiwan, Indonesia, ma tu basta che vendi 10 milioni di magliette, tu basta che conquisti lo 0,01 di un mercato, tu vendi 10 milioni di magliette a 20-30 euro l'una, le vendi con gli elettrodomestici nel caso della Saning, vendi la lavatrice e gli appioppi la maglietta dell'Inter, tu crei un potenziale mercato di gadget, di marketing, da 4, 500, 600 milioni l'anno. Poi c'è anche la storia dei diritti televisivi. Ma è verissimo, ragazzi. Ma avranno fatto i loro conti. Io ripeto, no, ripeto spesso che la vera sfiga del calcio italiano è che noi, negli anni in cui dominavamo, negli anni 90, sai, quegli anni lì il calcio non era ancora globale, era ancora il calcio delle nazioni. Se in quegli anni lì ci fosse stata la libera circolazione dei capitali che c'è oggi, la diffusione a livello planetario dei diritti televisivi, insomma, se e anche probabilmente una passione che in quegli anni lì stava nascendo nei paesi asiatici e negli stessi Stati Uniti, perché sicuramente avevano una passione per il calcio che era molto inferiore a quella che c'è oggi, probabilmente le nostre società sarebbero diventate leader nel mondo, perché in quel momento eravamo i figli di tutti e tutti gli anni la Coppa UEFA la vincevamo proprio senza neanche discussione, la Coppa dei Campioni quasi sempre andava molto bene. Quindi il peccato è stato che questo processo si è materializzato ormai da una decina d'anni, un po' in anticipo rispetto ai tempi in un momento in cui eravamo in difficoltà. E poi chiaramente come sistema paese, come direbbe Barisoni, siamo indietro su tante cose, sugli stati di proprietà abbiamo fatto un sacco di casini, abbiamo avuto problemi di violenza, abbiamo avuto spesso delle discussioni in Lega veramente banali per delle questioni banalissime, gli anni che i calendari sono cominciati, i campionati sono cominciati in ritardo per lo sciopero, insomma abbiamo fatto un po' di stronzate. No, abbiamo fatto. Però sono d'accordissimo con l'ascoltatore, cioè, ragazzi, se si vendono 100.000 magliette in più dell'Inter o del Milan grazie alla società cinese, insomma non è male, sono soldi. Sono soldi, avranno fatto come i loro conti, come dice Maccio Capatonda, sono soldi. Ma soprattutto il calcio in Italia fin qui è stato gestito come 50 anni fa, come 70 anni fa, cioè non è una gestione patriarcale quasi del calcio che non è più corrispondente a questi tempi. Diverso è, scusa al volo, la Juve che ha fatto un percorso invece tutto italiano, completamente diverso, sì, è riuscita ad avere un modello di gestione contemporaneo, c'è anche un dibattito su questo, è riuscita ad avere in maniera sicuramente molto efficace quel terreno lì, ha costruito lo stadio, è diventata oggettivamente leader in mille questioni e quindi ha seguito una strada che chiaramente è piacevole che ci sia un torinese come proprietario, cioè, della Juve, piuttosto che non ce lo vogliono gli amici cinesi, cioè è un elemento importante, però laddove questo non è realizzabile, insomma, la scorciatoia di grandi gruppi internazionali non è da buttare via. E poi trattasi di scorciatoia, vedremo. Nano Galderisi, buongiorno, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Senti, come stai? Guarda, ho finito i miei 3-4 giorni di vacanza, sono pronto a partire con la Lucchese la prossima settimana, perché anche noi pensiamo di... speriamo di fare un'annata importante. Però parliamo di Portugal. Do time do Portugal. Portugal. Io faccio il tifo per Portugal. Oh, claro, man, forza Portugal. Vamos a ganhar a tassa d'Europa. Pensa, Pierre, quando facevo le conferenze stampa i primi tempi, partivo così, good morning to everybody, no, bon dia to everybody, facevo un miscuglio di inglese ed era fantastico. Bon dia, come ti sei trovato, Nano? Molto bene, sono veramente stupendo. Rimasto rammaricato, ma veramente profondamente, perché il ritorno noi avevamo fatto 3 volte i punti dell'andata e siamo retrocessi a pari punti con una squadra che ci aveva fatto un gol in più nello scontro diretto. Ed è stato veramente un peccato, perché si poteva veramente iniziare qualcosa di importante in un campionato molto molto bello, logicamente con le giuste differenze tra, certo, le varie squadre, però interessantissimo. Bellissimo. Insomma, poi bellissimo. Noi abbiamo battuto il Porto, che non era mai successo nella storia dell'Oranese. Abbiamo perso 1-0 col Benfica l'anno che la giornata in cui loro dovevano qualificarsi, e la Juventus arrivava dopo 3 giorni. Tra l'altro ha beccato anche la Juventus. Sì. Insomma, è un bel campionato, tanti giovani, tanti ragazzi che passano di lì per cercare poi il trampolino di lancio verso il calcio, diciamo, delle grandi nazioni, però è un bel campionato, veramente. Poi giocano un buon calcio, giocano un calcio tatticamente un po' da migliorare, ma calcisticamente hanno il calcio nel sangue. Senti, ho due domande. Quella tecnica è: che rapporto hai col baccalà? Il baccalà. Lo diciamo per i pochi che non lo sapessero, è il piatto o baccalà. È il piatto portoghese, no? Lo chiamano amico fiel, l'amico fedele, lo cucinano addirittura in 365 modi. Teoricamente ogni giorno della tua vita tu puoi mangiare il baccalà in tutti i modi, col maiale, con le vongole, a brash, con l'uovo. Io sono pazzo il baccalà. Tu che rapporto hai? Lo mangiavi? Sì che lo mangiavo. Poi noi eravamo praticamente nella col vigno verde nell'Algarve, no? Che è la regione bassa, che è fantastica, vicini al mare, eravamo in un posto meraviglioso e di baccalà e di pesce se ne mangiava veramente tanto e a volontà. La Sardegna del Portogallo, l'Algarve. Esatto. Io posti così belli ne ho visti pochi, sinceramente. Io non avrei mai pensato che in quella zona ci fossero dei posti così ancora incontaminati, così ancora spartani, ma molto molto belli, a Ogliao, mentre vicino c'erano dei posti che sembrano Porto Cervo, Lagos, Albufeira. Ah, ma conosci Pierre? Certo, conosco. Cabo San Vicente, della mia drammatica esperienza di velista, dove praticamente l'unica cosa che faccio è mettere la musica a bordo, abbiamo anche doppiato Cabo San Vicente, che è la bandierina di calcio d'angolo dell'Europa, no? È quel capo che sta lì, e poi lì c'è tutto il discorso delle maree, per cui se tu lasci la barca e sali sulla terraferma devi controllare la tabella delle maree, perché se no trovi la barca. Esatto. Senti, invece, che pensi della partita di stasera? Perché i portoghesi hanno una sfiga storicamente pensare a quel adesso Portogallo hanno avuto un mazzo no così, dico eh. Storicamente basti pensare a quel Portogallo Grecia 0-1 del 2004, finale persa in casa col gol di Caristeas, che credo sia praticamente l'equivalente di un suicidio. Stanno ancora piangendo in però Portogallo, questa volta fin qui non hanno avuto proprio sfiga, anzi forse la volta pazzesco, buona forse la volta buona, ma non lo so. Io intanto è una squadra che a me piace, di conseguenza farò il tifo per loro, ma devo essere sincero, anche il Galles non mi dispiace, perché mi piace queste due squadre, questa squadra che con un campione ma con tanta volontà riesce veramente a ottenere dei risultati importanti. Io dico che il Portogallo sulla carta, non ci sono dubbi, ha qualcosa in più, qualità tecnica e tutto quello che resta, più Ronaldo. Però secondo me è una partita molto molto difficile, e poi i portoghesi nel momento in cui devono tirar fuori quella cattiveria, quella determinazione per raggiungere l'obiettivo, ho avuto sempre la sensazione, anche durante il percorso mio che ho fatto lì, che gli mancasse sempre qualcosa, come se avessero il braccino corto, no? secondo me il Portogallo non è ancora pronto mentalmente per arrivare in cima al mondo, tra virgolette. Sì. Cristiano Ronaldo non sembra pronto per niente. No. Tu dici più Cristiano Ronaldo, fino ad essere stato meno Cristiano, è stato un Portogallo meno Cristiano Ronaldo. Però questo aspetta lascia... un attimo, Pier, fermiamoci un attimo per il traffico. Nanu, stadi un attimo, arriviamo subito. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Tutti convocati. Io parlo, stiamo parlando con Nano Calderisi di Portogallo, guardando calcio la ricetta. La ricetta del bacalao. Bacalao o lagareiro? Lagareiro. Poi te la do, Comunque, comunque sono stato già chiamato da un mio giocatore che mi ha pacchettato che quando io mi presento a una squadra le prime due parole che tolgo allo spogliatoio è speriamo e mi dispiace, perché speriamo di vincere non mi piace e mi dispiace di aver perso mi fa arrabbiare ancora di più, perciò sono stato già bacchettato perché ho usato lo speriamo nella stagione della Lucchese, lo tolgo, chiedo scusa. Mi raccomando, okay. Attento, piano con le parole. Speriamo, un buon gioco. No, comunque Comunque. Se vuoi seminare, poi devi anche... Certo, devi stare attento quando parli in mondovisione, come fai quando sei su Radio 24. Assolutamente sì. Se, no, ti dicevo, dicevamo della partita di stasera, io dicevo che il Portogallo fino adesso ha avuto più fortuna che non abilità. Non voglio dire più culo che anima, ma più fortuna, più così, ha fatto più fortuna 5 che abilità. Punti in 5 partite. Non ha mai vinto nei 90 minuti, non ha mai messo in vetrina Cristiano Ronaldo, salvo quella doppietta che ci ricordiamo. In più questa sera, aggiunta la fortuna, tu dicevi il Gales ha un campione, secondo me ha un campionissimo e un altro campione che si chiama Ramsey e che questa sera non ci sarà perché è squalificato, insomma. Questo è un peccato per loro, perché credo che la squadra ha fatto secondo me un grandissimo europeo, insomma è stata la sorpresa più bella, diciamo, però hanno un'organizzazione, una ferocia, una determinazione nel cercare il risultato che qualche volta li premi anche o al di là di quello che è il loro potenziale. Ma il problema secondo me non sarà il Galles, sarà il Portogallo. Quanto sarà bravo il Portogallo a tirar fuori tutte le proprie qualità, e credo anche fortemente che Ronaldo non è in condizione, ma prima o poi qualche cosa di spettacolare lo fa, a parte quel colpo di tacco meraviglioso che ha fatto vincere una partita. Perché credo che ha fatto 2-3 errori Ronaldo in questo europeo che non è assolutamente avvicinabile alla sua bravura e alla sua così fame di gol, cattiveria sotto porta. Questo lo ha un po', secondo me, debilitato mentalmente. Però credo che questo è il momento che i campioni devono venire fuori. Però questo alla fine dà anche una speranza a Portogallo, no? Nel senso che credo che possa, proprio perché Cristiano fin qui si è visto poco, insomma c'è un margine, il margine di miglioramento del Portogallo è evidente ed è semplicemente un cambio di passo da parte del suo leader. Se si regala due super serate, il Portogallo può pure vincere l'Europeo, anche se secondo me la favorita comunque sarà la vincente di Francia-Germania, che io credo sarà la Francia, ma comunque insomma qui il lato forte del tabellone. Sì, sono d'accordissimo. Io all'inizio dell'Europeo avevo messo come finale Italia-Germania. C'è stata finale anticipata, cascata ai quarti, ma che vuoi fare? Sono d'accordo con Pierre, devo essere onesto, la Francia sta diventando sempre più cattiva, più squadra, più convinta dei propri mezzi, perciò secondo me la Germania troverà duro e nel momento che arrivi in finale non credo che i francesi siano così in casa, non faranno la stessa cosa che hanno fatto i portoghesi con i greci. No, credo di no. Un'ultima cosa sulla nazionale italiana, io nei giorni scorsi ho detto una cosa che magari è una bestialità ma è il mio pensiero, per quanto riguarda Ventura, io penso che debba fare un po' quello che ha fatto Allegri alla Juventus, cioè prendere all'inizio, visto che non c'è tanto tempo prima di una qualificazione mondiale che sarà difficilissima, prendere in toto il lavoro di Conte e poi pian piano, magari col tempo, costruire la sua nazionale. Sì, io credo che l'esperienza di questo allenatore sia la nostra fortuna, perché sicuramente ha visto quanto di buono e di bello è stato costruito in pochissimo tempo da un allenatore che mette davanti a tutti la determinazione, il rispetto delle regole, la capacità di diventare squadra senza inventarsi chissà che cosa, ma con il lavoro duro e con il rispetto delle regole e la disciplina. Il gruppo secondo me è solido e forte, perciò lui lo deve solo esaltare e trovare attraverso le sue idee, attraverso la sua esperienza, qualche altro giocatore che possa migliorare ancora la mentalità di questa squadra. Io non credo che lui riuscirà a trovare dei campioni che Conte non ha trovato, ma sicuramente troverà dei buoni giocatori a secondo il suo modo di vedere, per continuare una storia che ha entusiasmato tutta Italia, e credo che ci siano ancora grandi potenzialità per poter andare al mondiale, anche se questa qualificazione, onestamente, detto tra noi e te, teniamocelo tra noi, a me fa un po' paura, perché incontrare subito la Spagna dopo aver cambiato Conte, può succedere di tutto e di più se le cose non vanno come noi speriamo. Certo. Nanu, spero di sentirti presto e mi dispiace quando non ti trovo. Un abbraccio a Pier. Sì. Devo migliorare il portoghese, purtroppo. Scherzo, molto mentalità, molto forza, mi parla portoghese. Parlo a un insegnante di portoghese. È fantastico. Temo su un gioco molto importante. A un insegnante di portoghese, una signorina che te la regalo. Va a lezione due volte a settimana. Ma non è vero, ma magari mia moglie l'ascolta, pensa male. Io ho conosciuto l'insegnante di portoghese di Parma. Peccato che sono stato solo due mesi e mezzo, tre, perché sennò veramente sarebbe stata un'altra lingua, oltre all'inglese l'americano, potevo migliorare, però sono ancora giovane, ho solo 53 anni. Andiamo a vincere. Tanto in bocca al lupo con la Lucchese. Concentrato sulla Pantera, dobbiamo fare qualcosa di unico, di importante. Grazie Nano. Ciao. Un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Ciao Pier. Ciao. Ciao. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io ho una domanda sulla trattativa legata al Milan. Sì. Intervista, ma la farei anche se fossi rossonero questa domanda. E la domanda è la seguente. Non avete qualche perplessità sul buon fine di questa trattativa, visto il precedente di Mr. B, dove si fantasticava che dietro ci fosse la Bank of China, poi si è dissolto tutto nel nulla? Adesso qui si parla di una cordata, premesso che io di cordate nel calcio non ne ricordo, di solito c'è sempre un compratore identificato. Si fanno nomi, come ho letto, di Jack Ma, fondatore di Alibaba, il quale si è subito affrettato a smentire. Ecco, non trovate strano che non ci sia un vero compratore chiaro, ben preciso, come è successo nel caso dell'Inter? Sono dubbi legittimi, che credo siano anche quelli dei tifosi del Milan. Io credo che il caso Mr. B sia archiviato e che in questa situazione sia già arrivati ad una conclusione, e poi quei nomi verranno svelati e a quel punto capiremo. I tifosi del Milan capiranno, tutti quanti capiremo com'è la situazione. Ci fermiamo per il GR, torniamo. Resti? Hai da fare? No, adesso sto qua. Fantastico. GR. Prima svolta della partita, ancora lunga però. Tutti convocati. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da... Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Ma è andato tutto bene però l'incontro? Ma sensazioni positive, sarà il prossimo allenatore della Lazio, come se lo piazza. Se non posso dire nulla. A breve il presidente farà le comunicazioni che deve fare. Non penso che ci sia bisogno di dire nulla di Bielsa, no? Per lui parlano i fatti. Allora, queste dichiarazioni di Calveri, dirigente della Lazio, risalgono a 20 giugno. quando andò in Argentina a far firmare Marcelo Bielsa. Però oggi tutti convocati Time, mentre eravamo in onda, questo mistero si è risolto, si è dissipato. Allora perché c'è questa musica? Perché l'hanno preparata da prima. Era perché bella, De Luca, carina, De Luca dice bene. Che ancora c'è qualcosa nel comunicato di Sibillino che lascia pensare a un braccio di ferro. Ma chiediamolo a Carlo Laudisa. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, come va? Ciao. Bene, sì, questo mistero di Bielsa ci ha appassionato in queste ore, no? Perché il logo è già affascinante l'idea che arrivi, certo, di per sé, perché è un personaggio che sicuramente darà ricchezza al calcio italiano, sia per l'aspetto tecnico, ma anche per quello che è il personaggio, no? È arrivato l'ufficialità, come hai anticipato tu, è atteso per sabato, questo, l'unica incognita è questa. Arriverà davvero sabato? Beh, contratto depositato, credo che o è un atto formale per poi potersi tutelare legalmente, ma non credo. Oppure sono messi d'accordo. E arriva. Sì, sì, stavo enfatizzando quello che è la rincorsa che c'è stata in questi giorni, perché effettivamente sarebbe dovuto arrivare già la scorsa settimana, no? Ma certo, appunto con questo deposito, con l'ufficialità, non ci sono più dubbi. Di sicuro il fascino del personaggio Bielsa comincia a far parlare di sé. Senza aver fatto nulla ancora, no? Ancora prima di arrivare, intanto quelli della Lazio si sono radunati a Formello e sono lì a giocare a biliardo, perché non, non ci sono gli allenatori, non fanno allenamenti. No, si riposano perché poi dovranno avere una mattinata molto intensa con l'arrivo di piedi. Sì, senti, tra l'altro giorni di prima stavamo guardando le magliette, giorni di presentazione delle nuove maglie, quale ti piace di più tra quelle nuove? Quella della Lazio stavamo guardando prima. Voto non altissimo, No, beh, quella della Lazio è molto elegante, è un celeste, tra l'altro ne parlavo qui con un tifoso della Lazio, quindi è un celeste pigiamino, no, è molto elegante, pigiamino. è una polo quasi da tennis, e quindi è un po', no, è molto bella, devo dire, quella della Juve, la seconda maglia della Juve in blu, che è un richiamo alla Champions League vinta nel 96, molto particolare, ma sulla seconda maglia ci si può lasciare andare. E devo dire che anche le due dell'Inter mi piacciono molto. Quella della Roma, che è stata presentata oggi, prima maglia, è classica bella, con questo, questo rosso molto forte, acceso, insomma, molto però, giallo nella divisa dell'Inter. C'è la scritta dello sponsor di Pirelli sul petto, è richiamata dai calzettori. Poi c'è stato questa cosa per cui sono andati in campo una divisa d'allenamento con il nome dello sponsor coperto, no, Carlo Laudisa? È perché lo spieghi tu? Sì, perché c'è questa diatriba, perché la società sta cercando un nuovo sponsor per tutti gli allenamenti, e quindi c'è una querela con l'attuale sponsor, lo posso citare, è storico, certo, è anche l'azionista Pirelli, quindi c'è questa vicenda che dovrà essere risolta. È uno degli aspetti di come il cambio di proprietà stia portando tante novità, tanti entusiasmi, ma anche qualche nodo intricato da sciogliere. Sì, mercato di Milan e Inter, del Milan e Inter made in China. Che cosa succede? Io è prestissimo per dire, abbiamo solo intuito che l'Inter su Gabriel Jesus stia riuscirà davvero a prenderlo, farà un colpo importante di prospettiva, era nel milione della Juve. E l'altra vicenda di oggi è il blitz di Gagliani a Zagabria per Piazza, questo talento della Dinamo che abbiamo intravisto all'Europeo, che sembrava nelle mani della Juve dopo l'assalto del Napoli nei giorni scorsi. Vedremo se nelle prossime ore il vantaggio bianconero resisterà a questo blitz di Gagliani. E comunque, riunendo i due rami milanesi, l'arrivo dei cinesi sicuramente porta denari e un tesoro di ambizioni. È bene che il calcio italiano torni a poter testimoniare, no? Perché evidentemente è un ritorno al passato molto gradito. Sì, certo. 800240024, numero verde per chiamare. Tra l'altro hai notato, Pier, come ieri ne parlavano tutti i giornali, come le quotazioni dei giocatori italiani, dei giocatori azzurri dopo l'Europeo siano salite in maniera vertiginosa, Tra l'altro quasi tutti. No, sì. ma in realtà, tra l'altro, la Juventus ha respinto con perdite il Chelsea, che ha bussato con 45 per Bonucci. Sì, 45 per Bonucci sono tanti, però anche Roy Bonucci è bravissimo, quindi è il top che c'è in questo momento, comunque fra i top che c'è in questo momento Remy da Conte, esatto, in giro per l'Europa. E in generale credo che le quotazioni, se facciamo un discorso tasso, diciamo, statistico complessivo, le quotazioni dei giocatori italiani siano sicuramente cresciute. Poi chiaramente c'è stata questa vicenda Pelé Zaza, ma insomma Pelé, ribadisco, dal punto di vista magari mediatico, dal punto di vista social network, ha commesso un errore, ma dal punto di vista della dimensione complessiva del calciatore, secondo me in questo europeo ha mostrato delle cose importanti. Certo. Cioè, se ti metti nei panni di un dirigente di una squadra che deve pensare a lui per costruire, per tamponare, sicuramente la sua quotazione è cresciuta. Per quanto riguarda Zaza, io ribadisco, secondo me un europeo da 7.5. Pelé ha fatto un europeo da 7.5, ma d'altra parte si diceva ieri che dalla solita Cina si è arrivato qualcuno, anzi si è arrivate tre diverse offerte da un sacco di soldi per Pelé. Ho letto 15 milioni l'anno. Questa è una notizia di Gazza Mercato, scusatevi se pubblicizzo. Gazza Mercato. La creatura di Gazzetta.it l'abbiamo data l'altro giorno, è una curiosità che può essere che diventi realtà, perché l'offerta della Cina è... Sto perdendo. Cosa? Non ti sento più, ti sento male. Io ti sento bene adesso. Beh, sì. Dicevi? Fin dove mi avete sentito? No, fino all'offerta della Cina. Sì, l'offerta della Cina è concreta e quindi da prendere in esame. Perché in realtà, rispetto alla situazione che facevate prima, l'unico giocatore dell'Italia che ha effettivamente mercato è Bonucci, però l'Inter, scusate, la Juventus lo tiene molto stretto. Gli altri, sì, c'è Candreva, in questo caso direzione Inter. Però attenzione anche a João Mario, quest'altro giocatore dello Sporting di Lisbona che ha fatto bene all'europeo e potrebbe diventare l'alternativa per i nerazzurri. E poi poco altro, perché gli altri giocatori italiani o per età o per situazione di fatto non sono sul mercato. Parolo, faccio un esempio, ha fatto un europeo eccellente, ma temo non vada sul mercato o non abbia poi il riscontro di un'esperienza che sicuramente è stata molto positiva. Giaccherini è passato al Torino, ma non succederà ancora molto. No, Giaccherini non è passato al Torino. Passerà al Torino? Attenzione alla Fiorentina. Attenzione alla Fiorentina, perché abbiamo intervistato ieri il suo procuratore Valcareggi, che fra l'altro è vagamente viola, è viola scuro, come dice lui, Furione, lo salutiamo. Ma soprattutto c'è Corvino, no? Perché certo. A Bologna Giaccherini l'ha riportato Corvino, ecco perché il richiamo del Panta potrebbe fare breccia nella testa di Jack. Grazie Carlo, alla prossima. Ciao. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Sai, io ho un'impressione, Pierluigi, sarà uno dei mercati, delle edizioni di calcio mercato più ricche di sempre, perché non solo per Milan e Inter che hanno gli yen, sì. Ma perché ci sono diversi, la maggior parte dei grandi club europei, tolti i due spagnoli, che hanno cambiato allenatore. Sì, allora sì. Quando cambia allenatore, e sai, quelli di soldi ne hanno, dal City allo United. Poi, dall'anno scorso, ricorderete la sessione dell'estate scorsa, che fu una sessione sicuramente molto più importante rispetto a quella di due anni fa. Due anni fa, secondo me, è stato toccato il fondo. Peccato che Carlo non ci ascolta più, ce lo può confermare. Ma due anni fa venne toccato il fondo dal punto di vista della pochezza, il grande colpo fu i turbe, no? Sì, sì. Dall'anno scorso, comunque, gli effetti del nuovo contratto televisivo, che al netto di tutte le polemiche che ci sono state, è stato il più ricco della storia per il calcio italiano, ha portato risorse. Tant'è vero, l'anno scorso hanno ricominciato a girare abbastanza serenamente i 20 milioni, 25 mila. Bertolacci, Romagnolo, insomma, l'anno scorso sono state fatte trattative un pochino più pesanti, no? Ma io penso che anche a livello internazionale, al di là degli yuan milanesi, anche a livello internazionale, credo che Conte chiederà rinforzi al Chelsea, chiederà dei regali al Chelsea, Mourinho farà lo stesso lo United, assolutamente. Guardiola ha già cominciato a farlo con il City, Carletto Ancelotti non sta a guardare, tanto che si è regalato uno dei giocatori più impressionanti di questo europeo, che è il portoghese Renato Sanchez, che chissà quanti anni ha, qualcuno dice 18, qualcuno 24, a me pare comunque un grande comunque giocatore. In ogni caso vecchio non è, ecco, diciamo, può essere utile per un po' di anni. Chi abbiamo al telefono? Abbiamo qualcuno? No, ancora no. Stiamo provando a chiamare un po' di suspense. Qui il maestro Cruciani ci direbbe: chiama, sentiamo. Comunque, 800-24-0024. Dica, velocizzi. Se ci vuol chiamare lui, no, ma adesso riproveremo ancora. La Juventus ha già cominciato a viaggiare forte. Sentiamo? Pronto, presidente Lotito? Sono Pardo, non mi attacchi il telefono. Buonasera, Radio 24, radio di Confindustria, quindi. È ufficiale, Bielsa, tutto a posto. Scusa, non succede il Bielsa? Iniziamo sempre la storia del Bielsa. Bielsa, rimanga tra me e te. No, guarda, è in diretta, la mia correttezza mi porta a dire. No, io tanto lo dico, perché te lo dico, ho fatto un comunicato, c'è un comunicato. Ok, vabbè. Io sono corretto, questa è Radio 24, quindi è un conto, una chiamata. È un comunicato ufficiale. Però lei è felice, insomma, è un passo importante, no? È un grande maestro, no? Capito? Ecco. Pronto? Sì, dico è un grande colpo, questo lo possiamo... Ma il comunicato dice che è stato già depositato il contratto, non certo oggi... E che c'è il comunicato ufficiale e che come da comunicato suo verrà sabato. Ok. Beh, ma è un grande allenatore, presidente. Stiamo dicendo che è un grande colpo. No, vediamo che succede. Va bene? Va bene. Ok. Parliamo in privato. Grazie, presidente. No, resisti. Qui adesso Cruciani adesso verrà e mi venerà. Dovevi dire che eravate da soli. Lo so, purtroppo non ce la faccio. L'artista no, perché esiste, delle molestie. Beh, esiste una differenza fra una notizia che una persona ti può dare, magari con preghiera di darla qualche ora dopo, magari, piuttosto che una diretta. Quindi, insomma, no, comunque rimane il fatto che siamo tutti contenti che Bielsa finalmente sbarchi dalle nostre anche parti. Anche se poi hai sentito l'ultima frase di Lotito, quella l'ha detta, insomma, sapendo di essere diretta, poi vediamo che succede. Quindi un pochino di giallo in realtà rimane, e la sensazione qua De Luca adesso annuisce, la sensazione è che la Lazio abbia fatto questo comunicato perché ha l'accordo e il contratto con Bielsa e vuole in qualche modo forzare la mano e tutelarsi legittimamente, perché insomma sarebbe grave poi se... Ma tu pensi che c'entri qualcosa la nazionale argentina, l'addio di Tata Martino? Io penso che... Bielsa da quelle parti c'è già passato. Non faccio il processo alle intenzioni e ribadisco, non ho voluto appunto barare con Lotito, perché non mi piace barare nella vita, quindi chiaro, siamo in diretta, abbiamo provato a chiamarlo al volo ed era giusto che lui sapesse che era in diretta, perché c'è una differenza fra una comunicazione privata e una comunicazione pubblica. Detto questo, il fatto che lui dica alla fine, poi vediamo che succede, insomma, fa capire che evidentemente non è stata la cosa più facile del mondo, ma per carità, ci sta, voglio dire, Bielsa è un grande allenatore, la Lazio prendendolo certamente si prende un grande allenatore, la nazionale argentina è una grande nazionale, quindi insomma non è facile, se Bielsa alla fine decidesse di straccio di, contratto, pago la penale, insomma, ammesso che ci sia la penale, insomma, l'albiceleste è l'albiceleste, non è che la Lazio in questo momento è in lotta con il Legia Varsavia, con tutto rispetto, o con l'anartosis, tutti penseranno, i laziali penseranno, ma Tata Martino poteva aspettare altri 48 due settimane, ore, 48 una settimana 48 prima 48. Di dare l'annuncio. Allora, prima di andare, hai visto la nazionale di basket ieri sera? Non l'ho vista, perché ero ai palinsesti Mediaset, però devo confessarti che io e il mio direttore Alberto Brandi, insomma, ogni tanto sbirciavamo il risultato e quindi siamo felici. Mi sembra un passo avanti, no, rispetto alla prima partita. È chiaro, sono due partite non confrontabili. È stata una grande partita di basket europeo, cioè non, niente a che vedere con punteggi alti, lustrini, NBA. È stata una grande partita di Eurolega, mettiamola così, sì. Come racconta il punteggio sui 60, 67 Italia, 60 Croazia. Una vittoria molto importante che ci regalerà una semifinale morbida contro il Messico, e poi bisognerà battere in finale o la Croazia o la Grecia, a seconda di quale delle due la spunterà in semifinale. Grandissima difesa dopo un primo tempo da brividi, onestamente, in cui c'è stato Bogdanovic, che è un immenso giocatore che ci ha fatti a fette, poi l'ha preso in cura Hackett, che lo ha praticamente ammutolito nella ripresa, e l'Italia è riuscita a vincere con sprazzi di Berinelli parecchi, sprazzi di Gallinari qualcuno, sprazzi di Datome un paio. Sentiamo Messina. Ma è l'unico modo in cui noi possiamo vincere le partite, perché è vero che abbiamo molto talento individuale, però se facciamo come nel primo tempo, che fermiamo la palla e lasciamo la responsabilità a uno solo, perdiamo quattro giocatori ogni volta e non ce lo possiamo permettere. Devo ringraziare questo pubblico fantastico che ci ha spinto incessantemente anche quando le cose andavano male. Speriamo di riuscire a giocare un'altra buona partita venerdì nella semifinale e possibilmente anche in finale. I ragazzi hanno difeso con un impegno eccezionale. La cosa queste partite punto a punto con questi grandi nervi non possono che essere vinte in finale e con la difesa e andando a prendere falli sotto canestro. Sono le due cose che abbiamo fatto, dobbiamo continuare a farlo. Questa era Cosa Tremessina a proposito di eccellenze negli allenatori italiani, ma c'è anche Hackett che ieri è stato il migliore degli azzurri. Queste vittorie vengono raggiunte di squadra, cercando in cinque di difendere sui loro migliori giocatori. Saric e Bogdanovic ci avevano fatto veramente male nel primo tempo, nel secondo tempo 5 di Bogdanovic e poco altro di Saric, merito di tutti quei ragazzi che dopo i primi 20 minuti abbiamo ritrovato concentrazione, avevamo voglia di vincere questa sera, sono contento. Avevamo la spinta di non so quanti, 16.000, 20, non lo so, però vederli tutti in azzurro da tutta Italia, l'affetto che stiamo ricevendo in questi giorni è qualcosa di speciale che ci fa sentire importanti e vogliamo noi fare qualcosa per regalare a tutti quanti questo sogno. Teniamo le dita incrociate. Ce l'hai avuto Tiki Taka, Hackett? No? No, Hackett no. Hackett doveva venire una volta ma stava molto male. Trendy, molto, un personaggio molto trendy. Molto, sì, no. sì, doveva venire una volta ma ha avuto la febbre, veramente. Fu una grande sfida, è venuto Gallinari. E, sì, però sì. Un paio di anni fa doveva venire... Beh, 38 di lo richiamiamo, non c'è mica problema. Sì, beh, certo. Gioca un po' fuori mano, ha giocato all'Olimpia con l'Inghilterra, però che vuoi che sia. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Messieurs les Tours, Tour grandi firme mi pare, da queste, anzi mi pare, è cronaca in queste, cronaca, queste prime tappe, tutti i migliori a conquistarsi le prime medaglie. Sagan e maglia gialla, due vittorie di tappa per Mark Cavendish, una bella volata ieri di Marcel Kittel e oggi ci aspettiamo qualcosa di importante perché nel massiccio centrale succederà qualcosa, è una tappa molto dura e intanto dobbiamo vedere se Peter Sagan sarà in grado di difendere la maglia gialla, non sarà facile per lui e poi secondo me qualcosa succederà anche tra gli uomini di classifica, Froome, Quintana, lo stesso Aru, Nibali forse in difesa perché è ancora un po' presto, deve ancora trovare il colpo di pedale giusto, però secondo me oggi Froome e Quintana potrebbero così provare a darsi fastidio per poco prima dei Pirenei. Ricordiamo che i Pirenei cominceranno venerdì, quindi si intravedono. Sì, potrebbe essere la classica tappa di inizio tour che comincia a disegnare lo scheletro della classifica generale. Spesso è successo così e qualche volta quello scheletro è diventato una maglia gialla a Parigi, no? Esattamente, oggi è una tappa di fatica, è una tappa senza un metro di pianura, fa molto caldo e si comincia a sentire qualche chilometro, quindi oggi potrebbero provare a dare un po' gas per vedere la reazione dei certo, per misurare anche le forze dei nemici del gruppo, no? Certo. Grazie Pier Augusto, a presto. Grazie a voi. Dal Tour de France. Ti piace il Tour? Sì. Grandissimo. Mi piace, guarda, la Grand Boucle. L'ho detto anche spesso delle esperienze da cronista. Io credo che il giro, il tour, è una cosa che prima o poi una volta nella vita mi piacerebbe fare. Penso sia abbastanza infernale come ritmi, no? Sì. Però. E devo dirti che mi piacciono moltissimo quelle cose che fanno, per esempio, Crosetti, Mura. Che raccontano anche il resto. In realtà una grande gara come il Tour de France o il Giro d'Italia è anche un grande pretesto per raccontare pezzi certo. d'Italia, ma di Francia. Perché è una specie di grande gita scolastica. Sì, sì. È una grande gita scolastica. Quanti chili potrei prendere in un mese di Tour de France? È durissima. Quindi forse è meglio che... È durissima perché si finisce perché non di lavorare... mai, no? No, si finisce di lavorare tardi e sì, poi arriva sempre la telefonata del collega di turno. Beh, ci tu troviamo sai che tutti. L'aglio olio e peperoncino alle 2 di notte... uccide i grassi, no? Ah, uccide i grassi? Sì, sì, sì, è proprio consigliato. Pensavo il contrario, pensavo li nutrisse i grassi. Vabbè, adesso salutiamo tutti, ci sentiamo domani. Ci sentiamo domani, sì. Chi vince stasera? Galles o io penso che Francia-Portogallo sarà la finale, quindi a questo punto giocare di tranquillamente Germania e Galles, perché non perché li sbaglio perché tutti. Perché non credi nella Germania, scusa? No, credo nella Germania, però ha delle assenze. La Francia mi sembra più calda, più ispirata. L'assenza di Gomez è particolarmente pesante. L'assenza di Gomez è particolarmente perché Gomez non è un giocatore, lo sappiamo. Insomma, sarà qualcosa di così la Fiorentina. Non è un giocatore pazzesco, però è un giocatore che quando si accende è molto pericoloso. No, in nazionale, mediamente, si accende spesso. E poi E poi manca un'alternativa, per cui dovrebbe spostare Müller o chi per lui nella posizione di punta centrale, insomma, spariglia un po' sì. gli equilibri tattici. Tornano al falso 9. Ciao Pier, a domani. Firozin, Portugal. Io tifo Galles, vediamo. Ma sì, io tifo per io tiferei per una fra Portogallo e Galles, è ovvio. Però. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati, regista, ci sentiamo domani, tutti convocati alle 2. Che spettacolo, da brividi!